istintivamente raccolgo il mio latte versato, soffocando il mio orgoglio. Insensibilmente mi dirigo verso l'inizio del mio forte egoismo. Potrei dire, fare, pensare ed essere arrabbiato.